sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. I soldati a Palermo per ripulire la città, a Napoli 15 arresti per irregolarità negli impianti che avrebbero dovuto smaltire i rifiuti. È ormai certo, sono dell'Airbus, dell'Air France i resti che affiorano nell'Atlantico. Sarà difficile però recuperare le scatole nere e oggi la preghiera per le vittime. Pronto alle dimissioni un altro ministro inglese, il governo di Gordon Brown va a pezzi alla vigilia del voto europeo per lo scandalo dei rimborsi gonfiati. E l'Europa va alle urne con l'ombra della crisi. Nel primo trimestre il calo del PIL è stato del 2,5%, il peggiore da quando c'è l'unione monetaria. Ritrovato lo stemma di Totò trafugato dalla sua tomba, è stato restituito alla nipote. Un chilometro d'arte saluta la Biennale di Venezia, ma già fa discutere il ragazzo con la rana. Buongiorno da Maria Piera Ceci e da Anna Migliorati. Emergenza rifiuti in primo piano da Palermo a Napoli. In Sicilia ha preso il via il piano straordinario. In Campania questa mattina sono scattati gli arresti. Cominciamo allora da Palermo e da quella che è la situazione con Giampiero Casagni. Sì, buongiorno da Palermo. Si continuano a spazzare le strade qui in città per rimuovere le 4.400 tonnellate di rifiuti che da giorni non venivano raccolti dagli operatori ecologici dell'AMIA, la società ex municipalizzata in crisi economica. Da oggi i netturbini sono affiancati nell'opera di ripulitura della città da 150 uomini del genio militare, dopo l'ok dato dal ministro della difesa alla Russa alla richiesta del capo della protezione civile Bertolaso. Da tutta la Sicilia intanto stanno arrivando nel capoluogo siciliano 24 dei 40 autocompattatori messi a disposizione dalle società che raccolgono i rifiuti nelle altre province dell'isola. L'operazione di ripulitura di Palermo, avviata già l'altra sera, dovrebbe costare 100.000 euro al giorno e dovrebbe concludersi fra 5-6 giorni al massimo. Nonostante le strade comincino a tornare pian piano pulite, però la notte scorsa si sono ripetuti gli incendi di montagne di spazzatura e cassonetti in varie parti della città. I vigili del fuoco hanno dovuto far fronte ad una sessantina di chiamate per spegnere le fiamme. Da Palermo è tutto, linea allo studio. Grazie a Giampiero Casagni. A Napoli, dicevamo, per l'emergenza rifiuti gestita dai commissari sono scattati nuovi arresti. Sono 15 le ordinanze di custodia cautelare, tutte agli arresti domiciliari, eseguite nell'ambito di un'indagine sullo smaltimento dei rifiuti in Campania durante la gestione commissariale. Tra i destinatari il presidente della provincia di Benevento, Aniello Cimitile. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nei collaudi di alcuni impianti di CDR della regione, oggi convertiti in apparati per la tritobagliatura. Secondo IPM della Procura napoletana, i tecnici incaricati dei controlli, tra cui i docenti universitari, avrebbero dichiarato il falso, attestando l'idoneità degli impianti già sotto sequestro e sostenendo la conformità del prodotto finale del CDR. In realtà le ecoballe realizzate non erano combustibile da rifiuti. Per tutti l'accusa è di falso. In Campania i CDR hanno prodotto per anni milioni di ecoballe non a norma che non possono essere bruciate nei termovalorizzatori. Enzo Danna, GR24, il sole 24 ore, Napoli. E una notizia dell'ultima ora ci riporta a Palermo, dove un boss è stato scarcerato perché, dicono i giudici, è depresso e non può più stare in carcere. I giudici di Catania hanno concesso i domiciliari a Giacomo Nuccio Ienni, detenuto fino a lunedì scorso con il regime del 41 bis del carcere duro nel penitenziario di Parma. Nessuna simulazione, dicono i giudici, il boss non può restare in carcere per le sue condizioni di salute. Cambiamo decisamente argomento perché lo Stato Maggiore delle Forze Armate francesi non ha più alcun dubbio. I rottami trovati nell'Oceano Atlantico sono proprio dell'Airbus di Air France scomparso lunedì dai radar. A Parigi intanto oggi pomeriggio ci saranno una cerimonia interreligiosa a Notre Dame e una preghiera nella Grande Moschea. Allora andiamo proprio a Parigi per le ultime notizie. Igor Fiatti in diretta, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Parigi dunque ricorda oggi le proprie vittime. Nel pomeriggio infatti nella cattedrale di Notre Dame si terrà una cerimonia ecumenica alla quale parteciperà anche il presidente Nicolas Sarkozy, e anche nella grande moschea si pregherà per i passeggeri dell'Airbus Air France scomparso nell'Atlantico. Intanto però è sempre giallo sulle cause dello schianto. Le autorità francesi hanno sì aperto ufficialmente un'inchiesta, ma ammettono che le indagini non saranno affatto facili. Lo ha confermato Paul-Louis Arlagnan, capo dell'organizzazione di sicurezza dell'aviazione civile, incaricato di guidare le indagini. Sentiamolo. La trasparenza più totale C'est la règle pour la confiance. Nous n'avons aucune idée précise. Stando alle sue parole, l'Airbus non aveva problemi prima della partenza. Arlagnan ha poi affermato che l'inchiesta sarà lunga e complessa, sottolineando soprattutto le difficoltà che si avranno nel recupero delle scatole nere. E con questo per ora è tutto. Linea Milano. Grazie Igor Fiatti, naturalmente ci risentiremo poi nel pomeriggio, dicevamo ci saranno le cerimonie in ricordo delle vittime. 10 erano gli italiani a bordo del volo inabissatosi in mare. Il loro era un viaggio per la solidarietà, uno dei tanti che legano Italia e Brasile. Sono soprattutto giovani fra i 20 e i 40 anni, ma anche donne e uomini di mezza età che per solidarietà fanno la spola tra Italia e Brasile. Tante le associazioni in cui prestano servizio, come Onlus e Missioni, così come i progetti di cui i volontari italiani si occupano. Adozioni internazionali, protezione dei bambini e delle donne, sviluppo economico, ecologia. E partono soprattutto dal nord gli italiani che ogni anno vanno in Brasile come volontari. 90 solo nel 2008. Carlos Henrique Moscardo, console aggiunto del consolato brasiliano a Milano. Come esistono i legami storici con il Veneto, con il Trentino e con il Friuli Venezia Giulia, c'è un grande numero di gemellaggi tra città e stati e regioni. È solo osservare un po' il mappa del Brasile che si vede tanti nomi: Nova Trento, Nova Venezia. La maggior parte di loro presta servizio nel sud del Brasile, dove l'immigrazione dal bel paese in anni lontani è stata più consistente, ma anche al nord, nella regione della foresta amazzonica. Per Moscardo, i volontari italiani sono il ritratto della relazione di intimità fra i due paesi. Gli italiani si adattano molto bene in Brasile, c'è un sentimento di italianità molto vivo in Brasile, per l'origine anche culturale di molti brasiliani, e penso che esista una naturale simpatia. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo ora in Gran Bretagna. Quei $10 li ha restituiti il ministro dell'interno inglese Jackie Smith, ma non è bastato. L'opinione pubblica non le perdona di aver messo in nota spese un paio di filmetti porno noleggiati dal marito. E per il ministro dell'interno inglese, dunque, oggi dovrebbe annunciare le sue dimissioni. Ma in buona compagnia, è così Valeria De Rosa? Sì, buongiorno. E infatti anche Hazel Blair, il titolare del Ministero delle Comunità, ha rassegnato le dimissioni. Questo è quanto riportano sia la BBC che Sky. Il motivo è ancora una volta da ricercare nei rimborsi spese dei deputati. E questo è il secondo ministro di gabinetto a dimettersi in altrettanti giorni dopo le rivelazioni di ieri, secondo le quali, come appunto dicevate da studio, anche Jackie Smith, responsabile degli interni, dovrebbe lasciare l'home office. Blair aveva chiesto dei rimborsi per 3 diverse proprietà in un solo anno, utilizzando almeno 5.000 sterline per l'acquisto di mobili in 3 mesi. E quindi il governo del primo ministro britannico Gordon Brown è sempre più sotto pressione. Brown è costretto a far fronte a una vera e propria crisi di governo a poche ore dalle elezioni europee, che rischia di mettere in discussione proprio la sua leadership. Brown è stato sollecitato dai suoi fedelissimi a presentare un rimpasto di governo entro venerdì, proprio nel tentativo di ripristinare la sua autorità per frenare il declino del Labour, di cui si teme una nuova e bruciante sconfitta proprio al voto di domani. Dobbiamo dire che oltre a quelle della titolare dell'Home Office, Jackie Smith, sarebbero trapelate anche le dimissioni di Beverly Hughes, ministro dei bambini, e di Tom Watson, ministro di gabinetto, ma sarebbe a rischio anche Alistair Darling, ovvero il titolare del tesoro. Staremo a vedere che cosa succederà proprio nelle prossime ore. Grazie a Valeria De Rosa. Ovviamente sarà un tema che in Gran Bretagna inciderà sul voto europeo. Nel Regno Unito, peraltro, ricordiamo, le urne saranno aperte domani, e noi di Europa e di voto europeo parleremo ancora più avanti. Invece adesso parliamo davvero di tutt'altro, perché domenica notte, lo sapete, era stato rubato lo stemma nobiliare di Totò dalla cappella del Principe della Risata in un raid nel cimitero del Pianto a Poggio Reale. Lo stemma, questa è una buona notizia, è stato ritrovato nella zona di Marianella ed è stato riconsegnato alla nipote. Ne sa di più Paolo Picone. Sì, buongiorno. Era quasi sicuramente destinato ad arredare una lussuosa villa del nord Italia. Secondo quanto sottolineato dal questore di Napoli, Santi Giuffrè, era dunque su commissione il furto dello stemma nobiliare che oggi è stato riconsegnato alla nipote di Totò, Diana De Curtis, che naturalmente ora, a nome anche della madre Liliana, si dice più contenta. Ascoltiamo le sue parole. Certo, c'è una grandissima soddisfazione da parte mia e di mia madre. alla quale gliel'ho subito comunicato in Sudafrica, Johannesburg, è felicissima. Siamo tutti molto contenti e questo è un momento di grandissima gioia e ringraziamo i napoletani soprattutto che con la loro pressione hanno fatto in modo che lo stemma di Totò tornasse a casa sua. Lo stemma era in un nascondiglio ricavato in un terreno di proprietà privata di Marianella, alla periferia di Napoli, dove sono stati trovati anche altri oggetti sacri, forse appartenenti alla tomba di Enrico Caruso, anch'essa trafugata. Non ha riportato danni, solo un piccolo graffio in un angolo e potrebbe essere collocato davanti alla tomba anche in giornata. Il furto dunque, secondo quanto anche spiegato dal capo della squadra mobile, Vittorio Pisani, era inserito nel mercato illegale delle opere d'arte che da Napoli va al nord Italia per arredare ville antiche. Un mercato dove i napoletani hanno il ruolo di ladri per poi trasferire gli oggetti a commercianti antiquari. Vivissima gratitudine è stata espressa anche dal sindaco di Napoli Rossarusso Iervolino agli agenti della squadra mobile. Il sindaco ha assicurato che sarà cura dell'amministrazione comunale provvedere immediatamente al ripristino in loco dello stemma. Da Napoli è tutto. Alle 13:16 minuti torniamo con GR24 Extra Large, le notizie di oggi. Abbiamo parlato dell'emergenza rifiuti con i soldati a Palermo per ripulire la città, mentre a Napoli 15 arresti per irregolarità negli impianti che avrebbero dovuto smaltire i rifiuti durante il commissariamento. E poi l'incidente dell'Airbus dell'Air France, è ormai certo purtroppo che siano dell'aereo francese i resti che affiorano nell'Atlantico. Nel pomeriggio intanto la preghiera per le vittime a Notre Dame con Sarkozy. E poi ancora lo scandalo dei rimborsi gonfiati che travolge la Gran Bretagna. È pronto alle dimissioni un altro ministro inglese alla vigilia del voto europeo per lo scandalo dei rimborsi gonfiati. E ripartiamo parlando dell'attesissimo viaggio di Obama che prende il via oggi e che lo porterà prima in Medio Oriente e poi in Europa. Prima tappa sarà l'Arabia Saudita, tappa simbolica perché Re Abdullah è il guardiano dei luoghi sacri dell'Islam, la Mecca e la Medina. Domani invece ci sarà il discorso al Cairo che peraltro vi faremo sentire in diretta domani in uno speciale a partire dalle 12. E ieri in un'intervista il presidente americano ha detto: gli Stati Uniti sono uno dei più grandi paesi musulmani del pianeta. Ma sentiamo come stanno attendendo l'arrivo di Obama ai paesi arabi attraverso la lettura dei giornali della zona. Anche se non manca qualche scettico, grande ottimismo sulla stampa araba per l'atteso discorso al mondo islamico del presidente americano Barack Obama. I principali quotidiani sono colmi di consigli a Obama su come parlare ai musulmani, definendo il suo viaggio il vero battesimo della politica estera del signore della Casa Bianca. E c'è chi fa il parallelo con lo storico viaggio in Israele dell'ex presidente egiziano Anwar Sadat, che nel 1977, dalla terra dell'eterno nemico, annunciò la pace rivoluzionando gli equilibri in Medio Oriente. Pur mostrandosi scettica, anche la stampa antioccidentale ritiene che valga la pena di ascoltare Obama. Nel momento più basso di speranza degli arabi, concorda la stampa moderata e non, il presidente nero, che ci ha conquistati anche per il suo nome musulmano, è chiamato a passare ai fatti e voltare con coraggio la pagina nera del dopo 11 settembre, dove per colpa di un pugno di terroristi l'Islam ha subito dall'Occidente il più feroce linciaggio mai avvenuto nella storia. Adifa Tahani, GR24, Il Sole 24 Ore. E il viaggio di Obama avviene a pochi giorni da un altro appuntamento cruciale, le elezioni iraniane. Conto alla rovescia per l'Iran che il 12 giugno eleggerà il nuovo presidente. Dall'esito dipenderanno molti equilibri. Ne parliamo con Bijan Zarmandili, giornalista e scrittore iraniano. Ahmadinejad sembra essere il favorito e una forte influenza sul risultato esercitata anche dal capo religioso Khamenei. Chi ha realmente più potere in Iran, il presidente o gli ayatollah? Il personaggio decisivo per la sorte del paese rimane colui che detiene questo termine, velayat faghi, cioè un articolo della Costituzione iraniana islamica che fu approvato dopo la rivoluzione, voluto dall'Ayatollah Khomeini, appunto attribuisce al sommo Ayatollah questo diritto di veto su tutte le decisioni. Il 4 giugno, nella sua visita al Cairo, il presidente americano Obama parlerà al mondo islamico e quindi anche all'Iran. Cosa significa tutto questo? Obama non va al Cairo per parlare della Turchia, dell'Iran, dell'Egitto, ma va a parlare probabilmente tenendo conto di due fatti. Il mondo islamico sta emergendo e potenzialmente è un mondo che, con cui bisognerebbe fare i conti, forse più degli altri. E il secondo elemento è che l'America ha bisogno di cambiare la propria immagine nel mondo. Rispetto all'ex presidente Bush, Obama sembra forse più pronto ad ascoltare le aspirazioni palestinesi. Come vedono gli iraniani questo atteggiamento? Ricordiamoci, Obama si chiama Hussein e questo non è indifferente per gli iraniani. Cristina Fei, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. In questi minuti a Palazzo Chigi la conferenza stampa di presentazione del pacchetto Italia-Turismo con il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro Brambilla. Poco fa Berlusconi ha detto: bisogna puntare sul turismo per sostenere lo sviluppo e farlo in maniera decisa. Sentiamo in diretta Berlusconi. Nei prossimi 4 anni la percentuale rappresentata dal turismo dentro il nostro prodotto interno è qualcosa che non è così irraggiungibile. E poi sapete tutti che se uno vuol puntare all'8 deve fissarsi il traguardo al 10, perché se punta all'8 poi arriva al 6. Nella vita è sempre uguale così, nella vita come nella scuola e nel governo di un paese. Bene, credo che siamo pronti quindi per intervenire con le firme. Dunque sentivamo qualche secondo il premier Berlusconi: il turismo essenziale per rilanciare la crescita economica in Italia. Affermazione che arriva proprio nel giorno in cui dall'Europa arrivano dati tutt'altro che positivi, seppur che certificano una situazione già conosciuta. Crolla il PIL di tutta Europa come non era mai successo dalla nascita della zona euro. Segna in media in Eurolandia un meno 2,5% nei primi 3 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2008. I dati sono stati resi noti oggi da Eurostat. Il dato peggiore riguarda la Germania, meno 3,8%, l'Italia meno 2,4%. Nel weekend i dubbi del cancelliere tedesco Angela Merkel. L'operazione Opel comporta molti rischi e in ogni caso Magda non ha firmato un accordo vincolante, così ha detto la Merkel. Oggi la casa automobilistica Opel ha acquistato un'intera pagina sui maggiori quotidiani tedeschi per ringraziare il governo federale e i Länder per gli sforzi fatti per salvarla. Grazie al prestito ponte da 1,5 miliardi di euro promesso da Berlino, si legge in questa pagina, ci siamo avvicinati di molto all'obiettivo di garantire il futuro di Opel. E ancora, intanto, scusate, ormai a 2 giorni dal voto per il Parlamento europeo, apriamo una pagina, una finestra sull'Europa. È sceso in campo oggi l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che ha interrotto un lungo silenzio parlando di un allarme per la qualità democratica del Paese. Non è tempo né di astensioni né di sofisticate distinzioni, ha detto Prodi, è il momento di dimostrare che l'Italia può essere diversa e il Partito Democratico, pur nel suo non facile cammino, è l'unica concreta risposta. Così dunque Prodi in campagna elettorale. E ancora ieri l'appello del capo dello Stato perché si torni ad una campagna elettorale con più misura. Tutto ciò mentre il leader radicale Emma Bonino resta barricata nella sede Rai di Saxa Rubra per rivendicare anche con lo sciopero della fame e della sete maggiore rispetto della par condicio. Tra l'altro proprio le agenzie battono ora questa notizia, una denuncia firmata da Pannella e dalla Bonino in cui si ipotizzano i reati di abuso d'ufficio, omissione in atti d'ufficio per quanto riguarda presunte irregolarità nella gestione degli spazi elettorali nei telegiornali della RAI, è stata proprio fatta nei confronti dei direttori dei 3 TG appunto della RAI e del direttore generale di Viale Mazzini, Mauro Masi. Allora, cerchiamo di capire quali sono i temi che il Parlamento europeo che andremo ad eleggere fra ormai pochi giorni, quali sono i temi di cui dovrà occuparsi, visto che questi sono i temi sui quali poi in realtà si andrà ad agire. E allora salutiamo Piero Ignazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora partiamo proprio da qui, veramente poco si è parlato di temi in questa campagna elettorale. Di cosa dovrà occuparsi il prossimo Parlamento europeo? Si è detto la crisi sarà il punto principale. In realtà il Parlamento europeo ha alcuni poteri che sono definiti dai trattati e può intervenire quindi in alcune materie proponendosi come co-legislatore, però non su tutto ovviamente, quindi può farlo su alcuni aspetti della politica economica e monetaria, sulla concorrenza, sul mercato interno, quindi sulla libera circolazione. Su questo il Parlamento europeo ha potere e può intervenire in maniera legislativa, facendo leggi insieme alle altre istituzioni. Poi ovviamente il Parlamento europeo ha il potere di indirizzo, cioè discute su molti temi e presenta una serie di risoluzioni affinché le altre istituzioni o i governi nazionali si orientino verso quello che il Parlamento europeo, cioè i rappresentanti di tutti i cittadini europei, ritengono valido. Ignazi, stamattina sul Corriere della Sera Casini ha scritto una cosa piuttosto pesante. Il leader dell'UDC, Ferdinando Casini, ha attaccato il velinismo, di cui si sta parlando molto in questi giorni, e ha detto: ci saranno donne meritevoli ma non possono passare con le quote rosa, anche per questo abbiamo fatto una battaglia per le preferenze, non vedo Nilde Iotti all'orizzonte. Insomma, accuse abbastanza pesanti. Ma insomma, questi sono elementi di polemica che vanno però distinte. Da un lato c'è il cosiddetto problema del velinismo, che è stato sollevato all'interno della destra stessa da alcune componenti che fanno capo a scelte e esibizioni, diciamo, che poco hanno a che fare con i problemi e i contenuti della politica e molto invece con gli aspetti esteriori della politica e di chi fa politica. Poi per quanto riguarda le persone di alto profilo di diciamo sesso femminile, questa mi sembra un'accusa sostanzialmente ingenerosa da parte della Presidente Casini, perché in realtà ci sono molte personalità appunto del docente stesso all'interno del Parlamento che fanno bene il loro lavoro. Non ultima la Bonino, di cui abbiamo parlato poc'anzi, insomma, una donna molto impegnata. Certo. E soprattutto che lo è stato in Europa. Grazie allora a Piero Ignazi. Grazie a lei, arrivederci. In Europa in qualche modo restiamo, ma per parlare di un altro tema che riguarda non solo noi, il calcio e il razzismo. Dalla Francia arriva la notizia che un giocatore è stato condannato a 4 mesi di carcere per insulti in campo. Dario Ricci, che è successo? Sì, buongiorno, la notizia arriva da Lione, dalla provincia di Lione, 4 mesi di prigione per insulti razzisti in campo, come ricordavi Anna. Un giocatore di un club di dilettanti del nord della Francia, il Lagnier, è stato condannato a 4 mesi di reclusione con la condizionale per insulti di stampo razzista contro un giocatore avversario di colore. È la prima volta in Francia che un calciatore viene giudicato per un fatto del genere, ha detto in aula l'avvocato del giocatore querelante. L'imputato è Maxen Cavalcanté, 23 anni, ed è stato condannato inoltre a 100 ore di lavoro socialmente utile, a pagare 1.500 euro al danneggiato e altri 200 alla Lega contro il razzismo e l'antisemitismo che si era costituita parte civile. A subire gli insulti era stato il 25 febbraio scorso Makam Traoré, giocatore di 32 anni di origini senegalesi ma naturalizzato francese, che milita nel club del Roussillon. Da sottolineare che in seguito a questi insulti provenienti tanto da Cavalcanté che dal pubblico di Lagnier, l'arbitro aveva sospeso la partita a 5 minuti dalla fine, con successiva vittoria a tavolino per il Roussillon e penalizzazione di 4 punti in classifica per il Lagnier. Insomma, una sentenza da cui forse c'è molto da imparare. Grazie a te Dario Ricci. È una notizia battuta adesso dalle agenzie, ne parlavamo poc'anzi. Dunque, il presidente americano Barack Obama è arrivato a Riyadh in Arabia Saudita, prima tappa del viaggio che lo porterà successivamente in Egitto, Germania e Francia. 13:33, GR24 Extra Large con le notizie di oggi. Titoli: i soldati a Palermo per ripulire la città, Napoli 15 arresti per irregolarità negli impianti che avrebbero dovuto smaltire i rifiuti durante il commissariamento. È ormai certo, sono dell'Airbus e dell'Air France i resti che affiorano nell'Atlantico. Sarà difficile però recuperare le scatole nere. Oggi intanto la preghiera per le vittime. Pronto alle dimissioni un altro ministro inglese. Il governo di Gordon Brown va a pezzi alla vigilia del voto europeo per lo scandalo dei rimborsi gonfiati. E l'Europa va alle urne con l'ombra della crisi. Nel primo trimestre il calo del PIL è stato del 2,5%, il peggiore da quando c'è l'unione monetaria. Ritrovato lo stemma di Totò trafugato dalla sua tomba, è stato restituito alla nipote. Un chilometro d'arte saluta la Biennale di Venezia, ma già fa discutere il ragazzo con la rana. Allora riprendiamo proprio da qui, perché è davvero una giornata speciale quella di oggi per Venezia, che diventa buon titolo capitale dell'arte, almeno in questi giorni. Ci colleghiamo allora con Punta della Dogana, dov'è per noi Adriana Fracchia. Buongiorno Adriana, com'è questo ragazzo con la rana? Allora parti subito da lì, dalla scultura che ha incuriosito tutti, il ragazzo con la rana di Charles Lay, questo artista californiano che è stata appunto svelata al pubblico oggi. Chiediamo a Francesco Bonanni, che è tra l'altro curatore della mostra che sorge in questo museo d'arte contemporanea voluto fortemente dal magnate francese della moda François Pinault, la mostra si intitola Mapping the Studio, lo ricordiamo, ecco, chiediamo a Francesco Bonanni il significato di questa statua che Charles Lay dedica a Venezia sulla punta della dogana. Buongiorno. Charles Ray è un artista californiano a cui François Pinault ha commissionato di pensare una scultura per la punta della dogana, e lui ha pensato a qualcosa proprio che ha a che fare con la città, con il rapporto con lo spazio di Venezia, con l'acqua, ma anche con lo spazio mentale che Venezia ci offre, e ha creato questo giovane di 13-14 anni, quindi un giovane che entra nell'adolescenza, che è nudo, che sorregge, tiene in mano, col braccio destro tiene in mano una rana che potrebbe aver trovato nelle acque di Venezia oppure nelle acque anche del Mississippi. Questa è la grandezza di Charles Ray, che ci porta le acque dell'America qui nel Gran Canale, il Canale della Giudecca, e quindi è questo segno di meraviglia, credo che sia un simbolo di meraviglia verso la novità, e l'arte contemporanea è novità davanti alla quale dobbiamo diventare un po' adolescenti, ma l'arte contemporanea è come Venezia appare agli occhi di tantissimi turisti di tutto il mondo che l'hanno sempre sognata quando la vedono, no? Arrivano e vedono questa città che hanno sentito parlare, ma che in realtà è una meraviglia. Ecco, il sindaco Cacciari, premetto alla domanda se è parapolemica questa scultura, ha detto può essere, la cosa non lo dispiaceva comunque, e comunque lui ha detto che l'arte contemporanea è sempre ironica e quindi poteva esserlo benissimo anche questa statua di Charles Ray. Una seconda e ultima domanda, Francesco Bonanni, Venezia diventa così uno dei poli dell'arte contemporanea, non solo da sé, ma un po' più per l'arte contemporanea? Venezia con la Biennale di Arte Contemporanea, che è una delle nostre istituzioni più prestigiose, con il Centro di Arte Contemporanea, diventa veramente un polo sulla contemporaneità, che poi in fondo dobbiamo sempre ricordare, nonostante noi vediamo Venezia come questa città a volte morente, a volte che parla soltanto del passato, dobbiamo sempre ricordare che se abbiamo Venezia e tante altre città d'arte in Italia, lo dobbiamo al fatto che ai tempi che furono costruite e create, la gente, i cittadini pensavano in un modo contemporaneo, quindi vuol dire non pensare al momento, all'oggi soltanto, ma pensare al futuro, pensare a quello che noi saremo nel futuro anche senza la nostra presenza. Credo che François Pinault, Massimo Cacciari e anche il presidente della Biennale Paolo Baratta, che non sono più dei bambini, ci danno una grandissima lezione, pensando come degli adolescenti, appunto guardando a quello che fanno alla Biennale, alla città, all'arte contemporanea, come il bambino guarda la rana. Grazie allora ad Adriana Fracchia. Francesco Bonanni per essere stato nostro ospite, ricordo che domani invece partiranno tutte le iniziative per la 53esima edizione della Biennale di Venezia. Arrivederci a tutti gli ascoltatori. Grazie ad Adriana Fracchia, al suo ospite, così parte dunque la Biennale. Torniamo a Palazzo Chigi, perché prima vi abbiamo fatto ascoltare l'inizio della conferenza stampa del Premier Berlusconi, accanto a lui il Ministro per il Turismo Michela Brambilla. Il fattore psicologico, ha detto Berlusconi, è importantissimo, può influenzare la durata e la profondità della crisi, per questo è importante alimentare l'ottimismo e per questo che noi diciamo agli italiani di non smettere di consumare. Ha rilanciato dunque un tema che gli è caro il Premier Berlusconi: bisogna puntare sul turismo per sostenere lo sviluppo. La conferenza stampa sta proseguendo in questi minuti, allora vediamo di farvene ascoltare qualche altro stralcio. Lo stanziamento di un plafond di 1.600.000.000 di euro in un momento come questo rappresenta veramente un grande, grandissimo risultato, soprattutto perché non devo spiegarvi io, voi della, colleghi della stampa, sapete bene quali siano oggi le difficoltà per le piccole e medie imprese nel momento in cui si parla di accesso al credito e sapete bene quali sono le loro necessità di capitali per investimenti anche in vista di questa stagione estiva. E quindi chiudo dicendovi che questo plafond è concretamente, realmente ed immediatamente a disposizione delle imprese turistiche già per questa stagione estiva. Bene, ringraziamo ancora i signori che hanno rappresentato. Ecco, era il ministro Brambilla alla conferenza stampa di presentazione appunto del pacchetto Italia Turismo. E noi restiamo in argomento, continuiamo a parlare di imprese, perché la giustizia civile costa alle imprese ogni anno 23 miliardi di euro. Ci spiega tutto Paola Cavadi. Sì, buongiorno. Il sistema della giustizia civile, con le sue lungaggini e le sue disfunzionalità, pesa sulle imprese e ne ostacola lo sviluppo. Tra spese giudiziarie, onorari legali, mancati incassi dovuti ai tempi infiniti del processo civile, in Italia dura in media 1210 giorni contro per esempio i 330 della Francia, le imprese italiane pagano ogni anno 23 miliardi di euro di costi. Tutte risorse sottratte agli investimenti, necessarie come l'ossigeno invece in tempi di crisi. A dirlo è uno studio del Censis, commissionato dalla Camera di Commercio di Roma e presentato oggi tra gli altri al Ministro della Giustizia Alfano e al Presidente di Confindustria Marcegaglia. Secondo lo studio, le imprese più colpite dal malfunzionamento della giustizia sono le imprese del settore industriale di piccole dimensioni e collocate nel sud Italia. Riformare la giustizia e trovare strumenti alternativi di risoluzione delle controversie è, secondo il numero uno di Confindustria, la ricetta per venire incontro alle esigenze delle imprese. Esigenze, ha aggiunto Marcegaglia, che troppo spesso sono trascurate e messe in ombra dalla campagna elettorale e dal tenore del dibattito politico in corso. Non è vero, ha risposto il ministro Alfano, il PDL ha sempre messo al centro proprio i problemi veri del paese, quelli delle imprese, quelli della gente che fanno i conti con la crisi. E alla politica il numero uno degli industriali chiede ancora una volta riforme strutturali a partire da quelle della giustizia e dalla definizione di nuove regole che evitino il ripetersi di crisi future. Ma, ha aggiunto Marcegaglia, bisogna evitare che superata la crisi passi l'idea che a definire strategie e iniziative in campo economico siano gli stati e non le imprese. Emblematico, ha aggiunto, il caso Opel. A prevalere, ha detto, non è stata la logica del mercato né quella del miglior piano industriale, ma la definizione di interessi e di rapporti tra stati. Da Roma è tutto, a voi studio. Grazie a Paola Cavadi. E quello di cui parliamo ora è un vero affare milionario da più di 100 milioni di euro. È quello che riguarda il mondo del calcio. Lunedì Real Madrid annuncerà l'acquisto dell'anno, l'arrivo del brasiliano Kaká dal Milan. Sarà stato il potere del fascino della camiseta blanca o forse la costanza nel cercare da anni di portare il giocatore in Spagna, ma alla fine sembra proprio che il matrimonio Kaká Real Madrid si farà. Anche se uno spasimante dell'ultima ora, il Chelsea di quell'Ancelotti che il brasiliano ben conosce, ha tentato di mandare a monte le nozze rilanciando l'offerta. Kaká andrà al Real Madrid e sarà il primo acquisto della seconda ondata di Galacticos regalati dal presidente Perez, appena tornato dietro la scrivania della Ciudad Deportiva. La cifra che il Real pagherà al Milan, 68 milioni di euro, garantirà alle casse rossonere una sostanziosa iniezione di liquidità, l'ideale nel momento in cui la famiglia Berlusconi, soprattutto i figli Pier Silvio e Marina, pare che non vedano di buon occhio nuovi investimenti nel calcio. A Leonardo, neo allenatore del Milan, il duro compito di vincere anche senza Kakà. A Lippi invece quello di preparare la nazionale per la Confederations Cup di giugno. Il primo test con tanti esordienti sabato sera a Pisa contro l'Irlanda del Nord, oggi il primo allenamento a Coverciano, ma dalla prossima settimana si inizierà a fare sul serio. Massimo Di Cenza, GR24, Il Sole 24. Il presidente Obama, il presidente americano Obama, abbiamo detto, è arrivato in Arabia Saudita e lo aspetta una bella grana, perché il presidente iraniano Ahmadinejad ha nuovamente preso di mira Israele proprio questa mattina, definendo l'olocausto un grande inganno. In una dichiarazione pubblica pubblicata dal sito internet della televisione iraniana, il leader iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha spiegato che l'identità della democrazia liberale è stata rivelata al mondo dalla sua protezione del regime più criminale della storia dell'umanità, il regime sionista, utilizzando il grande inganno dell'olocausto. Queste parole di Ahmadinejad. 13:45 minuti, prosegue GR24 Extra Large. E prosegue parlando della nave Buccaneer, dove 16 marinai italiani sono nelle mani dei pirati somali, pensate, da 53 giorni. Non abbiamo più la forza di andare avanti. C'è gente che veramente sta male, da mangiare non ce n'è, per favore aiutateci che qua non ce la facciamo più. L'audio è disturbato, la voce è fioca, ma il messaggio è chiaro: liberateci o moriremo di stenti. Mario Yarloy, comandante della Buccaneer, la nave italiana sequestrata l'11 aprile nel Golfo di Aden dai pirati somali, torna a lanciare un appello al Corriere della Sera. Denuncia condizioni di vita tragiche, senza cibo e medicinali, esorta le autorità italiane a velocizzare le trattative. Erasmo Albano, cugino di uno dei 10 ostaggi italiani, commenta così il messaggio di aiuto. Nessuno ha la possibilità, come stanno loro, di poter chiamare con un telefono satellitare come e quando vogliono. Per cui la telefonata che c'è stata è una telefonata sicuramente pilotata in presenza dei sequestratori. Ed è una tattica, è una strategia. Intanto dei 16 marinai catturati dai predoni ormai 53 giorni fa, 6 di loro sono stati portati sulla terraferma per essere nascosti in caso di un blitz delle teste di cuoio italiane. Il governo somalo continua a seguire la vicenda, ma ci sono poche possibilità che si verifichi al momento un intervento militare. Sia perché i pirati sono numericamente superiori rispetto agli ostaggi, si pensa a una ventina e questo comporterebbe un rischio, sia perché il rimorchiatore si trova in un villaggio sulla costa somala del Puntland, un'area semi-autonoma che sfugge al controllo del governo e meglio conosciuta come Covo dei Pirati. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto in Somalia è sempre più emergenza umanitaria. Sono ormai 70.000 le persone fuggite da Mogadiscio da quando il 7 maggio esplosa la battaglia tra gli insorti integralisti islamici considerati riconducibili se non direttamente legati ad Al-Qaeda e le truppe governative. L'ONU ha lanciato l'allarme ormai da giorni. A Mogadiscio c'è e salutiamo Roberto Bongiorni. Sì, buongiorno a tutti. Mi trovo ancora a Mogadiscio e gli scontri vanno avanti tra le forze del governo somalo di transizione e i Shabab, i ribelli estremisti islamici Shabab. Mogadiscio ha un aspetto surreale, alcuni miliziani ora stanno appoggiando le forze del governo di transizione, sono postate nella sede del vecchio Parlamento proprio di fronte alla roccaforte degli Shabab. Mogadiscio è semplicemente impressionante in questi giorni. Migliaia di persone in fila, di disperate donne, stanno abbandonando la città appena i conflitti a fuoco si fa meno intenso, ma non portano nulla, solo i bambini abbracciati, le case sono completamente diroccate. Gli ospedali che abbiamo visitato non hanno quasi nemmeno le bende, le garze, per curare i malati. Nella Madina Hospital addirittura vi sono centinaia di persone che devono ancora essere assistite, ferite da armi da fuoco, sdraiate su un prato. La situazione comunque è molto molto grave. L'insicurezza a Mogadiscio, anche nelle zone controllate dal governo, è altissima. I Shabab sono riusciti un po' a infiltrarsi dappertutto. Per il momento però le forze del governo di transizione somalo, governo appoggiato dall'Occidente, stanno in questi giorni avendo un po' la meglio. Ma Mogadiscio assomiglia più a una città fantasma. Prevedere come andranno a finire gli scontri, chi prevarrà, è ancora molto difficile. E da Mogadiscio è tutto. E in questi minuti le televisioni stanno mostrando le immagini di Obama che è appena atterrato in Arabia Saudita, proprio in questi minuti sta incontrando Re Abdallah, le immagini mostrano, credo che sia l'aeroporto, che dici Anna? Sarà l'aeroporto? Sì, è proprio appena arrivato dall'aereo presidenziale, quindi sì, sono ancora in aeroporto, allestito come una sala in questi istanti, di palazzo. E si stanno alzando, quindi insomma comunque vi terremo aggiornati sugli spostamenti oggi del presidente americano in attesa del momento clou di questa visita che è domani, l'attesissimo discorso, anche se ormai si sa più o meno quasi tutto, all'Università del Cairo. E vi ricordiamo anche che ve lo trasmetteremo in diretta in uno speciale su Radio 24 a partire dalle 12. Cambiamo continente, davvero andiamo dall'altra parte del mondo più o meno, andiamo in Cina. The noise of gunfire rose from all over the center of Peking. Così le televisioni internazionali, quelle che avete sentito, era la CNN, raccontavano quanto stava succedendo a Pechino, in piazza Tiananmen, dove gli studenti iniziarono una rivolta finita nel sangue. Era la notte tra il 3 e il 4 giugno, esattamente, di 20 anni fa. Una Cina diversa, quella di oggi. Lo spunto per parlarne arriva dal consiglio di lettura di oggi. Si intitola infatti Arricchirsi è glorioso e l'ha scritto uno degli scrittori cinesi più famosi al mondo, Yu Hua, in Italia, pubblicato da Feltrinelli. Il romanzo racconta con ironia i vizi della società cinese, primo fra tutti la corsa ad arricchirsi. Yu Hua lo ha intervistato Alessandra Tedesco. Le cose incredibili che io racconto sono la Cina di oggi, sono cose che accadono quotidianamente e sono una minima parte di quanto succede realmente. Diciamo che vi ho dato un assaggio della Cina di oggi. Un esempio? C'è un centro commerciale enorme, vi dico solo che commercializza più di 500.000 prodotti diversi. Gli economisti si domandano a che serve, che senso ha. La verità è che vengono venduti tutti. È la dimostrazione che il consumismo in Cina è vertiginoso. Ricordo che c'erano stati un po' di problemi quando aveva pubblicato Brothers in Cina per la pubblicazione di questo romanzo. Ci sono state critiche ancora più infervorate della volta precedente. Arricchirsi è glorioso, ha sollevato un vespaio perché secondo molti io non descrivo la Cina vera. Mi hanno accusato di voler nascondere il lato bello del mio paese. Sicuramente la Cina è anche il paese delle cose bellissime che io non ho scritto, ma ci sono già abbastanza scrittori che incensano il partito, i successi del governo e l'intero paese. C'è bisogno anche di voci fuori dal coro, di gente che metta in evidenza le cose negative della realtà cinese. Una notizia di questi minuti ci riporta in Italia. Il superamento della crisi economica richiede un difficile equilibrio tra azioni volte al sostegno delle imprese e del sistema di credito da un lato e la tutela dell'occupazione e la difesa del reddito dei lavoratori e delle famiglie dall'altro. Parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio inviato per un convegno che si sta svolgendo proprio in questi minuti. Ne parleremo nel corso della giornata. Prima il riepilogo delle principali notizie. E ripartiamo dalle parole di Berlusconi. Non smettete di consumare, lo ha detto il Premier nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi per la presentazione del pacchetto Italia Turismo, durante la quale ha detto che bisogna puntare proprio sul turismo per sostenere lo sviluppo e farlo in maniera decisa. L'emergenza rifiuti, i soldati oggi a Palermo per ripulire la città, a Napoli 15 gli arresti per irregolarità negli impianti che avrebbero dovuto smaltire rifiuti nell'epoca dei commissari. È ormai certo, sono dell'Airbus dell'Air France, i resti che affiorano nell'Atlantico, sarà difficile recuperare le scatole nere. Oggi intanto la preghiera per le vittime a Notre Dame. Pronto alle dimissioni un altro ministro inglese, il governo di Brown va a pezzi alla vigilia del voto europeo per lo scandalo dei rimborsi gonfiati. E l'Europa va alle urne con l'ombra della crisi. Nel primo trimestre il calo del PIL è stato del 2,5%, il peggiore da quando c'è l'Unione Monetaria. Siamo arrivati anche per oggi alla conclusione di questa edizione di GR24 Extra Large, in regia Peter Bescapè, edizione curata e condotta da Maria Piera Ceci e Anna Migliorati. L'appuntamento è per domani, come sempre, a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.